Domenica scorsa, come capita ogni tanto a tutti, avevo dormito un po' più a lungo del solito, con la deplorevole conseguenza di presentarmi ai microfoni della caccia senza aver adeguatamente compulsato la stampa quotidiana. Altrimenti non mi sarei certo lasciato sfuggire l'occasione di segnalarvi il record conseguito quel giorno dal Corriere della Sera, che a proposito del referendum sul divorzio nella Repubblica d'Irlanda era riuscito a pubblicare con discreto rilievo in un articolo e nel relativo sommario il commento più idiota che si potesse esprimere in merito, quello di tale Una Mihamahuna, attivista cattolica dei comitati antidivorzisti, secondo la quale la vittoria della parte opposta alla sua era la vittoria dei sodomiti e degli scambiamoglie. Un commento idiota, nel senso che non occorre l'intelligenza di Paolo Mieli per capire che poche categorie umane possano essere meno interessate alla causa del divorzio di quella dei sodomiti, almeno finché non gli riconosceranno il diritto di contrarre il matrimonio, e quanto a coloro che si dilettano di scambiarsi le mogli, se ne esistono in quantità sufficiente per considerarli un gruppo sociale, il divorzio dovrebbe essere l'esatto contrario del loro ideale di organizzazione della famiglia. Anzi, a essere proprio pignoli, si dovrebbe poter inferire che a tale istituto costoro siano risolutamente contrari, perché per scambiarsi la moglie o il marito è assolutamente necessario che il marito o la moglie divorziati non siano. Ma queste sono sciocchezze. Queste sono sciocchezze e tutti sappiamo benissimo cosa intendeva dire nella sua bassezza morale la Turpe Una Mihamahuna. Ma il fatto che il principale quotidiano italiano, questo sì, abbia scelto di giocare il suo commento su una simile nota di colore, e tra parentesi non si sia preso nemmeno il disturbo di mandare a Dublino un inviato, si è limitato a una corrispondenza, e da Londra, questo fatto dimostra quanto scarso interesse la stampa italiana abbia dedicato all'evento. Infatti, nella settimana successiva a quella che è appena trascorsa, l'argomento è sparito del tutto dai nostri giornali, salvo un paio di pensosi articoli di fondo sulla Chiesa di fronte al mondo moderno o banalità simili, e il che, trattandosi del più cospicuo calcio nei denti che il Papa Wojtyła ha ricevuto da un bel pezzo, la dice abbastanza lunga sulla laicità e l'autonomia di giudizio delle nostre classi dirigenti. Perché invece converrete anche voi che la faccenda del divorzio irlandese è una delle questioni più importanti dei nostri anni travagliati. Non è un fatto di folklore, non è una pura questione di modernità o di trasformazione di un paese finora arretrato. È un problema che riguarda direttamente l'intero Occidente e il suo destino ideologico. In fondo sono mesi che tutti continuano a ripeterci come il vero pericolo che da questo punto di vista ci minaccia sia l'integralismo, e contro esso integralismo si affrettano tutti a erigere dighe, barriere, e nessuno, almeno in Italia, all'estero non saprei, nessuno si è accorto che quella di domenica scorsa è la prima seria, sostanziosa sconfitta che l'integralismo subisca in Europa da parecchio tempo. E spero che di non sembrarvi esagerato, sapete che è una mia fissazione, quella secondo cui l'integralismo non è una peculiarità esclusiva del sud del mondo. L'integralismo allinea benissimo anche da noi, per quanto moderni e teologicamente avvertiti ci consideriamo. L'integralismo non si identifica con una teologia particolarmente rigida, perché la rigidità di una teologia ovviamente va giudicata su criteri interni, in base ai quali probabilmente ogni chiesa o sottochiesa considera la propria rigida quanto basta. L'integralismo dal punto di vista sociale è soprattutto una questione di riti e di precetti, ma non perché certi riti e certi precetti per natura siano più integralisti di altri. Mi spiego, non c'è niente di integralistico nella convinzione per cui per guadagnarsi la beatitudine eterna o semplicemente per affermare la propria appartenenza a una comunità bisogna attenersi a certi rituali. Per esempio evitare certi cibi. I tabù alimentari accompagnano l'umanità dal suo remoto passato tribale, hanno un'insospettata capacità di riprodursi anche fuori da qualsiasi dimensione religiosa, come sa chiunque abbia riflettuto brevemente sul valore ideologico del colesterolo nel mondo moderno. E colesterolo a parte, personalmente, io per quanto mi riguarda non credo che l'onnipotente possa interessare più che tanto se sono uso ingozzarmi di creature marine prive di pinne o di squame o di animali con l'unghia divisa in due, ma se qualcuno un mio ottimo amico, per esempio, lo è, se qualcuno è convinto che la cosa sia di importanza fondamentale, non sarò io a creargli problemi. E se mi capitasse di invitarlo a cena, non lo metterò in imbarazzo offrendogli un piatto di seppia con la pancetta. L'usanza di portare la cravatta in sé è meno razionale di quella di portare il chador. E la pretesa di esibire sui propri documenti personali una fotografia col volto velato, come è successo recentemente in Francia, può creare problemi solo a chi ritiene davvero assolutamente bisogno di un documento con una fotografia per identificare qualcun altro. Se un mio vicino mi chiedesse cortesemente di accendergli il fuoco, o soltanto di premere l'interruttore della corrente elettrica perché lui, essendo venerdì dopo il tramonto, non può farlo, ma via, non, cosa mi costa accontentarlo? Sarò felice di essergli utile. E se un mio conoscente, afflitto dalle conseguenze di un matrimonio disastroso, rifiutasse di adire al divorzio perché le sue convinzioni glielo vietano, beh, ne ammirerò la coerenza, a patto che tutte le altre parti in causa siano d'accordo con lui. Insomma, non si dovrebbe aver bisogno di ripetere ogni volta che l'integralismo nasce quando si pretende di imporre a tutti la propria convinzione su una qualsiasi di queste questioni o simili, e quando si vuole che le leggi precludano a tutti il consumo di seppie o impongano a tutti di portare il chador o escludano per tutti il divorzio, prevedendo frustate, galera, biasimo pubblico o quante altre pene per chi si faccia accogliere in contravvenzione di queste norme. È un vecchio vizio di tutte le chiese, europee o extraeuropee, che esattamente su questo tema si scontrano da un paio di secoli con quella che in mancanza di meglio si suole chiamare la civiltà moderna. Noi italiani dovremmo essere i primi a saperlo, ma a quanto pare, quando c'è da esprimere un commento su un fatto specifico, non se ne ricorda nessuno. O se qualcuno se ne ricorda, si guarda bene da esprimerlo, perché siamo tutti laici, siamo tutti liberali, siamo tutti liberal-democratici, siamo tutti moderni, ma quando si tratta della Chiesa Cattolica è meglio starsene schisci, non si sa mai.